Che ha da sposar Sofia. Una lettera? Sì, sappia Marianna il gran progetto. Orsù, spirito e cuore, tentiamo il colpo e ci protegga amore. Ho trovato poi l'intoppo e

Il carattere è lo stesso in entrambe. Oh, che caldo. Finito ora il puntiglio. Chiara è la prova. Quello è il vostro figlio. Oh, la testa. Andate via. All'altro mondo. Ah! Il cervello ci va fondo, il cervello ci va fondo, sotto sopra se ne va. Sotto sopra se ne va da cima fondo. Sotto sopra se ne va. Sotto sopra se ne va. Sotto sopra se ne va. Or signore, tocca a voi. Comando a voi, Bruschino. Vi prego un momentino, vi prego un momentino. Comando, sospendete. Devo andare, se permettete. Devo andare, se permettete. Ad altrove, ad altrove, ad altrove segnalate. Naso, se lo son, mi caschi il naso. Dei tirani, devi muovino,

Oh, che scoperta! Bravo il cavalone! Filiberto ora sa quel che ha da fare. Ma chi diavolo va ai costumi? Vorrei saperlo. Ehi, vieni, sentiamo. Sofia, parlo col suo tutor smanioso somba a frittar le nozze. Guai se scopre Cadenzio che sono figlio di Florina, suo amico. Ma che tardo, andiamo a lei, tranquillo non sono io. Se Meneo non mi stringe all'idol mio. Trionfo, che scoperta, è il mio figliuolo di quel nemico di Gaudenzio. Bene, or tocca a me. Conviene farli sposi, tu e che con Filiberto venga mio figlio. Ecco Gaudenzio qua, facciamo la commedia come va. Cugino, che pasticcio è tu? questo qua? È un pasticcio saporito, è un pasticcio saporito. Vieni avanti, disgraziato. Padre mio, padre mio, mio mio, mio mio, mio mio, son pentito, ti do dito, padre mio, sono pentito, ti do dito. Che vuol dire? Che ho terminato qui con lui, ogni mia paternità. E suo figlio, appunto, e questo, suo cugino, e non diceste, ti dissi che gli è bruschino, mai suo figlio, e voi facete, dichiarate, rispondete, Dirò io com'è la cosa. Egli amava vostra figlia, e per farla anche sua sposa, qual non esse finto qua. E chi siete? Un mondo nome, bagatelle, e come? E figlio di Florville, il senatore, il mio nemico. Padre mio! No, vergognoso! Per un solido puntino rinnegato adesso qui, Cospettor, il padre estinto, è tornato alla ragione, poverino, la compassione. Li avete già sposati? Disgraziati! 8.6兆赫，欢迎收听。感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话。请进北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 刚才我们听到的是罗西尼的歌剧《布鲁斯基诺先生》中的经典唱段，接下来为您带来的是马斯内的歌剧《纳瓦拉人》中的经典唱段，由玛丽莲·霍恩、多明戈等演唱，亨利·路易斯指挥伦敦交响乐团演奏。 Autumn, et c'est la paix, la

Eh bien, quand l'ultima porterò, figlio, une dote gala selette, se dona mon brava fille, a mon fils, nous verrons. La campagne, amenez les canons jusqu'aux barricades. Vous, Rizzo, remplacez le commandant Andrés. Vous, lieutenant Fer, respectez les grands gardes. Tenez-vous prêts, messieurs. Vive notre pays!

Thank you. pesati doganie. J'ai promis, j'ai frappé l'homme et mort. Malheureuse, tu es mort. Je ne mens pas. Le pacte était conclu. J'ai demandé le chef. Voilà, il m'interroge face à face. J'avais mon couteau sur mon châle. En maudissant, je l'ai frappé ainsi. Voilà. Frappé. Précieuse galant, et les balles effilées. Blessée. Ah, que m'importe? Me voici, et 2000 duros, cet argent, c'est le prix. Calarar, Tsukaraga. Charité, dit. Écoutez. Arrive de Bilbao. C'est la voix de l'amour. 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到。